qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. Minuti primi, ce l'abbiamo fatta. Sì, ci dovresti stare pure te, diamo. Ci sto? A voglia. Qua segna 22:11. No, invece lì l'orologio, quello con i numeretti dell'alimentari del Norcino, insomma, segna 22:12 minuti primi. Serviamo il numero 47. Sì, e appunto in compagnia, lo avete sentito subito, come stiamo facendo praticamente, cerchiamo di fare in ogni puntata da qui, anzi da tempo, fino al 24 e poi pure chissà perché no dopo. 24 di maggio ovviamente. Poco più di un mese, allora X, la data fatidica, i 40 anni. E perciò che, sapendo che c'è pure, forse, probabilmente ci sta Big Max in ascolto, diciamo una vecchia conoscenza, che lui si incazza quando dice così, perché dice vecchio ci sarai. Vecchio ci sarai. Allora dai, dato che siamo in due, sì. Tanto più che io sono il giovane poi della... Ah, tra l'altro. Poi c'era pure, giovanilista, c'era pure lo spazio giovani, era uno ancora più giovane, quindi vabbè. No, e vogliamo ricordare, se te li ricordi a memoria, un po' di contatti della radio, il sito, dai, così ti faccio subito lavorare, ti metto subito... Vediamo se mi ricordo. Beh, sicuramente www.ondarossa.info è il sito internet dove potete ascoltare la radio in diretta streaming e anche il podcast. Sì, il podcast è benissimo. E dove tra l'altro c'è una cosa importante, no? In alto sta la cartellina sostieni, apre una paginetta e... Queste sono tutte cose nuove, perché se tu clicchi là, che succede? C'è il PayPal, mi ricordo. Eh sì, c'è pure PayPal, ma ce ne stanno un sacco, di numeretti e appunto... Sarebbe lunghissimo dirli, per cui... È il 61 80 40 01. Ci sta pure quello, però lo diciamo sempre così, solo per così, deformazione professionale. Anche se di professionale non c'è nulla. C'è proprio poco nella nostra radio, fortunatamente. E quindi, comunque sì, funziona ancora il conto corrente postale 61 80 40 01. Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, questa è un po' cambiata, prima dicevamo Radio Onda Rossa. Invece non... Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. No, vabbè, perché è più corretto, diciamo, il conto corrente postale è intestato lì, poi arrivano uguale, però qualche volta c'è stato qualche disguido così, per cui o diciamo preciso com'è da... ufficialità dei... Vabbè, tanto non lo usa più nessuno il conto. No, no, lo dovete usare. Vabbè, pure sì, pure se non lo usa più nessuno, lo dovete da usare. Anche perché se fa pure quello, se avete il bonifico da fare con la banca. Anche la casa, tranquilli, con internet. Anche via internet. Quindi se no passate da qua. Ah, sì, sì, è che dove stiamo? Qua pure perché via, serve per conto corrente postale. Via De Vosci 56 00185 Roma. San Lollo. San Lorenzo. Eh sì. Poi il fax non c'è più. Gli SMS l'abbiamo tolti perché non li usa più nessuno. SMS. C'è sta una pagina WhatsApp. C'è la pagina WhatsApp, ecco, sì. Questa è una... La radio. Sì, sì. Non c'è la pagina Facebook. Non c'è la pagina ufficiale Facebook, c'è la pagina... Noi non abbiamo, per scelta nostra, insomma, Facebook non ci garba molto. E ampie discussioni intorno a questa cosa, non è una cosa così a cuor legge, però insomma alla fine la radio non ce l'ha Facebook, come per esempio non ce l'ho io e non ce l'hanno anche tante altre trasmissioni. Invece a Twitter. Invece c'ha Twitter, c'ha Twitter. No, WhatsApp ho detto, no, WhatsApp non c'è, no. Ah, no, ecco, no. Twitter, WhatsApp per me era... No, WhatsApp non c'è. Perché ho detto WhatsApp? No. WhatsApp. Non credo, non mi risulta. Beh, comunque tante radio lo sento che c'hanno WhatsApp e c'hanno anche Telegram. Ecco, Telegram potrebbe essere una cosa. Vabbè, dai, se apriremo un altre un protocollo, tutto, vabbè, questo. Sì. Vabbè, apriremo ampie. Sì, poi magari veniamo pure a questi punti qua, perché poi andiamo a rimangare nel passato. E poi ce n'è un altro di numero importantissimo, quello vecchio come il conto corrente. 49 17 50, con lo 06 davanti, invece l'hai detto, 06. L'hai detto come si diceva quando ancora ti ricordi, perché mi sa che del 95 una volta l'abbiamo cercato, quando è che abbiamo smesso di fare di, cioè abbiamo cominciato a mettere il prefisso per fare metà anni 90, sì, tipo 94 95, quindi sì. All'inizio era 49 17 50, sì, adesso sì, io ai primi tempi dicevo soltanto 49 17 50. Ok, allora abbiamo detto tutto e partiamo col blues, guarda caso, però con blues bianco, e poi bianco. Fra un pochino ti diamo la parola. Sì, non è detto che io abbia scelto blues nero, non lo so. Sì, beh, sì, anche. Vabbè, vediamo sta roba qua. Appena finisce la sigla, ovviamente. sunshine every day. Ma si parlava sopra i brani blues quando li mandavi? Ha voglia, certo. Si può fare. Si può fare. Si può anche fare, vabbè, no, perché a me comunque dispiace sempre invece interloquire sul blues. Quindi. No, no, perché il blues poi spesso hanno un'introduzione tipo questa in cui. Certo. In cui diciamo ancora si deve entrare nella verve. Ci sono due giri, tre giri in cui. Sì. Vabbè, comunque Steve Ray Vaughan fatto pure apposta, perché magari certo. nel lancio delle per le radio si pensava a questo, sì, no? Sì, perché no? Perché no? Anche perché appunto il blues sappiamo era e lo stiamo studiando insieme con la storia di B.B. King che stiamo curando insomma insieme a Blues Power A Big Max era proprio fatto da gente che comunque insomma in qualche misura ci voleva portare, perché era un po' un modo per uscire dalla povertà, dalla miseria, e quindi appunto comunque suonare blues e farselo mandare per radio e fare un pezzo radiofonico era importante, certo. E dunque dicevamo, qui era un po' meno importante, diciamo, Steve Ray Vaughan, ormai stiamo agli anni 90, no, anche 80, questo pezzo 70, anche, 80, sì. E classe 1954 Steve Ray Vaughan, quindi sì, stiamo fine anni 70, inizio anni 80, anzi un rilancio del blues in chiave moderna e texana, fatto comunque alla vecchia maniera, insomma. Questo ci piace molto. Abbiamo ascoltato la quinta traccia da questa raccolta che si chiama Texas Flood, appunto, per ricordare che è texano. Andiamo adesso a un'altra voce che, quando abbiamo preparato la trasmissione insomma con Spider, ci siamo domandati come potevamo fare. Lui mi ha detto no, vai tranquillo, manda pure le cose tue, insomma, certo, sì, le cose mie, però un po' disturbate, quindi Tom Waits, che rumoreggia col blues, ci lavora un po' sopra. Dodicesima traccia di questo lavoro del 2004, da cui andiamo a trarre appunto la dodicesima traccia, che si chiama Leave me, lasciami. Yeah. to leave me now. Allora, dal momento che si può parlare sul blues, abbiamo avuto il consenso. Dopo Tom Waits, ancora un altro che rumoreggia, sì, col blues gli piace. Vabbè, entra la cultura pure qui, entra il punk, assolutamente. Poi nel caso di Joe Spencer Blues Explosion, che viene da un hardcore sporchissimo statunitense, eccetera, in cui però appunto va a riscoprire proprio le radici del suono americano, del suono più sporco e più proletario, se vuoi, degli Stati Uniti e della tradizione statunitense, e quindi del blues. Rocket Ship. Addirittura qui siamo proprio nell'attualità, 2010, appena appena uscito. Sì. Allora, ci siamo. Quindi andiamo un po' a parlare di Spider e dalla sua esperienza radiofonica, insomma. E entrammo quasi insieme qualche tempo dopo, diciamo. Io già frequentavo la radio e poi venne questo personaggio, perché di personaggio si trattava, direttamente dal profondo sud, e portò un'ulteriore voce, oltre alle soppressate, sì, portò un'ulteriore voce del profondo sud nella radio, che non si era mai fatta mancare comunque già negli anni precedenti, insomma. Personaggi e compagni e compagne che venivano dalla Repubblica Popolare di Calabria e dintorni, insomma. Che ci hai preparato? Che l'ho preparato? Allora, no, io perché non sapevo proprio veramente da che parte iniziare. Allora ho cominciato, sapendo che tu magari preparavi un po' di blues, io sono andato un po' più sul giovanilistico, sul funky e funky soul, insomma, poi vedremo. Intanto adesso vi volevo fare ascoltare questa Marlena Shaw's Woman of the Ghetto. to me. How do you let you say, brother, when you're free, one man and try to chain up the other? Tell me, let you stay. How does your heart feel late at night? Allora, Marlena Shaw, Woman of the Ghetto. Del soul, come si amava fare tante volte in radio. La buona Martis non ne manda più tanto di soul, perché no, la missione ha preso più alla cumbia, sì. Però insomma, di tanto in tanto anche ma lei. Ma ne sa molto lei, eh? Ne sa molto, e pure lei fu un ingresso più o meno in quei, per quel, certo, periodo lì, in quel periodo lì. Quando noi entrammo creammo, allora bisogna dire innanzitutto che a quei tempi tu non è che entravi in radio e proponevi una trasmissione musicale, salve, so io, voglio fare il blues. Non funzionava così. Dovevi dare il tuo impegno alla radio e dovevi quantomeno prenderti un turno o mattutino pomeridiano. E poi bisogna dire che essenzialmente si saliva alla radio, nemmeno si entrava alla radio, perché già più o meno si trafficava sotto. Qua sotto. Il primo avvicinamento alla radio era qua sotto. Poi si saliva il piano e si proponeva il proprio impegno, insomma. Sì, intanto sta andando un'altra cosa sotto, noi la lasciamo andare. Ah, ma senti che roba! Senti che sei andato questo... a capare. Questa è proprio la versione originale di quello che era, ma è tuttora, vero? Sì, no, devo togliere il ritorno in cassa, assolutamente sì. La sigla del GR, chi la introdusse? Te lo ricordi? Perché prima ce n'era un'altra, negli anni 80 ce n'era mi ricordo, erano i primi tempi dei CD. Sì. Ancora c'erano i CD, c'eravamo uno solo che funzionava a fasi alterne. E c'era un signore disegnato CD che faceva una mossa di karate, se non sbaglio. Sì, bravo. È vero. Perché mi hai fatto memoria fotografica. E si metteva quello, si ritornava indietro per... Ovviamente non andare. C'eravamo i CDJ, questa roba professionale. No, erano proprio un po' rotta, ma professionale. Insomma, no, avevamo proprio i CD, i lettori di casa. Insomma. Ma forse manco esistevano i CDJ. Non... Sì, a quell'epoca i DJ aborrivano il. Sì, il CD proprio come fumo negli occhi, proprio una roba. Insomma, qualcuno portò il CD e quella fu la sigla. La sigla di GR. Ma pure perché durava parecchio. Mi quando sono entrato io, i GR a Radio Onda Rossa si facevano col televideo. bisognava essere in due a fare il GR, c'era uno che leggeva le notizie. Quindi innanzitutto dovevo pagare sta corvette, nel senso, per fare poi dopo il tuo turno consisteva nel fare anche il GR. Esatto, certo, il turno consisteva se stava la mattina o la mattina o il pomeriggio. Sera, certo. E iniziava dal prima del ecco il pomeriggio per esempio, finiva il GR della mattina e tu attaccavi il turno e poi arrivavi e preparavi il GR della sera. Sì. E all'epoca vabbè c'erano notizie di Fonte Antagonista, per cui le telefonate registrate sulle cassette. E invece per le notizie di fonte di d'agenzia si andava a vedere il televideo sul televisore. Sì, ed era una corsa a cambiare i numeretti, dai vai. E si leggeva proprio il lancio d'agenzia. Sì, poi arrivavano i fax perché era il periodo. Ma guarda, io tuttora sul telefonino ho l'app del televideo perché sono. Sei rimasto colpito dall'epoca. Sì, sono notizie concise, lanci d'agenzia è quello. Vedi, senza fronzoli. Siamo un pochino vecchi. Però un po' di barbetta bianca ce l'abbiamo tutte e due. No, non bene, insomma, io senz'altro di più. Sì, essenzialmente poi appunto, tra l'altro, il passaggio, non abbiamo indicato un altro ulteriore passaggio di quell'epoca e di quel periodo, cioè si saliva in radio, si cominciava a fare il turno, ma ancora prima di cominciare a fare il turno qui succedeva anche qualcos'altro, cioè si andava in una stanzetta che era un po' diversa la topografia della radio. Va bene, possiamo parlare pure dopo, dai, magari. Stava a parlare dell'ECN, della nascita dell'informatizzazione di Radio Onda Rossa, cioè come, dato che ci eravamo stufati di guardare il televideo, vedi, veniva da sola la cosa. Sì. Beh, quello però era ancora più che le notizie d'agenzia, là si prendevano le notizie di Fonte Antagonista. Esatto, perché poi spiegheremo che cos'è l'ECN. Non lo so se. Sì, dai, lo spieghiamo. Lo spieghiamo fra poco perché non vogliamo riempire i concetti, chi ci ascolta, perché dovete prendere appunti su queste cose, queste sono pillole di storia di Onda Rossa che ci ritroviamo a fare. Però in realtà non è manco storia, per noi è quasi attualità, insomma. Sembra ieri, ma è ieri, tutto sommato, dai. Va bene, allora adesso ci ascoltiamo questo. Dopo la sigla del GR. Dopo la sigla del GR, su cui abbiamo parlato del GR dei tempi che furono. E ci sentiamo Rock Me Again and Again and Again. Ok. Everybody get funky! Love you good. Everybody get funky. .9 della modulazione di frequenza, 22:49 in compagnia di Spider. Salve. Allora, no, volevamo chiudere il discorso del di come nasce Blues Night, no? Allora, per entrare in radio tu dovevi prenderti il turno e noi abbiamo deciso, eravamo lì nel fra collettivo universitario, insomma, io sì. Massimo e qualcun altro, fra cui Marta, che è arrivata qualche settimana dopo, sì. Decidemmo di prenderci questo turno in radio e di mettere blues per tutto il pomeriggio. Anche perché mancava, credo. Perché in quel periodo, sì. Per come mi ricordo io, insomma, molto reg. Tanto reg. Molto reg ragamuffin, hip hop e un po' di punk, psichedelia, sì. Rock, insomma, sì. E anche proprio in quegli anni, iniziata in realtà proprio qualche anno prima con la redazione di Rumori Molesti, che era una sorta di redazione musicale di Radio Onda Rossa, si fece un po' una rivoluzione dal punto di vista culturale. Io una cosa che ricordo, che si può dire perché ormai è storia, i compagni e le compagne erano abbastanza, come d'altronde anche noi stessi, insomma, non è che nessuno nasce imparato, erano abbastanza ignoranti in quanto a musica che non fosse poi alla fine il cantautorame. Esatto, c'era il concetto che la radio Onda Rossa dovesse essere una radio soprattutto parlata, tant'è che non c'era neanche lo stereo, Sì. Essenzialmente era quello e appunto c'era in realtà una grande discoteca di dischi di un po' di tutte le risme. Ma quella contribuì a crearla, la redazione di Rumori Molesti. Questo prima che arrivassi io posso parlare solo per sentito dire. Sì. No, ricordo che c'era, io quando entrai già c'era una bella discoteca, stiamo parlando della fine degli anni Ottanta, e c'era appunto stato questo lavoro della redazione di Rumori Molesti che aveva un po' cambiato le carte in tavola, quindi aveva cominciato a introdurre dapprima il punk, la nuova psichedelia, mano a mano poi come si chiamava, Dr. Pepper, la trasmissione sul funk, hip hop, eccetera, insomma mano a mano si accavallarono i vari generi musicali che invece culturalmente portavano ricchezza, perché poi alla fine parlavano di altre lotte in forma diversa da quella parlata, ecco. Certo. Quindi appunto vi prendeste il turno e nacquero da quello quante trasmissioni? Nacque la trasmissione Blues Night, che poi facemmo la domenica sera, ed era una trasmissione prettamente blues. E poi all'interno di quel giovedì pomeriggio che ci prendevamo c'era Marta che metteva il soul femminile e insomma, poi si riempivano, anche perché sì, poi alle volte passavano gli amici e portavano cose, insomma. Certo. No, ma poi tra l'altro i pomeriggi erano, cioè ci stavano sì i giorni con le manifestazioni, le lotte, le occupazioni, come sempre e come ha sempre fatto Radio Onda Rossa per suo proprio ruolo istituzionale, come dire, certo. Anche se istituzionale non abbiamo nulla. Però c'erano anche pomeriggi magari più d'estate, insomma, succedeva niente. Succedeva poco. e quindi si andava avanti così. E potevi sbizzarrirti con tutti i generi musicali, perché appunto noi siamo partiti dal blues, però poi non disdegnavamo neanche il rock psichedelico che dicevi prima. Sì. E sempre quel periodo, tra l'altro, ce l'abbiamo avuto qui, che ci ha portato una selezione funky blues comunque molto nera. Anche Bubu, insomma, che comunque lui faceva un turno di mattina e insomma anche lui aggiunse questo tipo di sonorità, anche se lui in qualche misura faceva parte persino del collettivo One Love, quindi in alcune situazioni e circostanze ci sdoppiavamo, insomma, in termini di personalità, e andavamo poi a spaziare anche sui generi, insomma. Okay. Cosa abbiamo pronto invece noi? Come ci andiamo a sbizzarrire adesso? Andiamo pronto questo Little Child Running Wild. 22:59 Onda Rossa, 87.9 in FM, 06 491 750 per i vostri interventi, ma soprattutto per accendere di rosso la redazione della Radio di Rossa che c'è. Allora, mentre continua la base, e c'è da dire che le tecnologie sono un po' cambiate, sono un po' cambiate, sì. Sì, le cassettine, i nastrini non ci sono più, le... anche fare le basi su cui parlare è diventato abbastanza semplice, almeno in diretta, insomma. Sì, no, ma pure all'epoca c'era il disco che andava. Cioè, sì. L'importante era scegliere il disco giusto. Il disco giusto. E come nasceva questa cosa, appunto, dello scegliere il disco giusto? Perché uno metteva un certo disco invece che un altro, a fronte di questa discoteca della radio, di questo sia di questa discoteca propria della radio, questa dove ci stavano tutti i dischi appizzati, molti rigatissimi, perché ovviamente venivano. Altri li portavamo da casa, questi vinili, le cassettine pure portavamo da casa, molte volte con invece grossa difficoltà nel, insomma, come, perché mettevamo un disco piuttosto che un altro? Ma dici noi perché sceglievamo il blues o perché? Perché sceglievate il blues e perché dentro il blues sceglievamo qualcosa al posto? Allora, di... noi ci siamo avvicinati al blues fondamentalmente perché era una musica che ci piaceva e che mancava all'interno del palinsesto della radio. Piacevano le ritmiche, proprio il sound. Sì, ci piacevano quei tre accordi infiniti, ripetuti un miliardo di volte, che però danno sempre qualcosa di appassionante, di nuovo, qualcosa di... Sì, io non saprei spiegarlo, perché proprio il blues a me è una musica che mi prende veramente dentro l'anima. Infatti me ne accorgo subito quando è suonato con poco cuore, insomma. Vabbè, insomma, noi ci siamo avvicinati al blues perché era una musica che ci piaceva e la mettevamo, conoscevamo le cose un po'. All'inizio conoscevamo veramente poco, ci siamo resi conto. Però col tempo abbiamo cominciato ad apprezzarla sempre più e avvicinarci al blues, ma anche al jazz, al soul, al funk, a tutta la musica nera, e a cominciare a studiare anche le persone che stavano dietro questa musica. Uno cominciava a farsi delle domande, insomma, perché sta roba mi piace tutto sommato? Noi adesso stiamo sentendo, per esempio, The Revolution Will Not Televised di Gilio Scottile. E già in questo genere di musica già dice le cose più direttamente, mentre invece... Beh, questa è un'espressione diretta poi del movimento afroamericano, insomma, era una sorta di speaker politico, era anche un poeta, insomma, un poeta, poetry alla... Esatto, il rap prima del rap, certo. Però il blues è fatto soprattutto di sentimenti personali, di tristezze personali, di lavori persi, di avventure andate male. E, per cui non è facile leggere subito la persona che ci sta dietro, cioè devi andarla a studiare, a leggere libri. Noi questa cosa ci ha subito un po' preso per capire... per dare pure di più a quelli che ci ascoltavano, no? Allora abbiamo cominciato a leggere vari libri, varie cose e niente, questo ha sempre più affinato la scelta del... E si è andati avanti e sì, un po' funziona così, tutto sommato. Sì, tutto sommato una radio è fatta di parole e suoni, essenzialmente di rumori che possono essere più o meno modulati, quindi le parole, i suoni, la musica, le ritmiche, l'incrocio di tutta questa roba qua. E a un certo punto te devi dire qualcosa, e questo qualcosa, quando si dice, cioè quando viene espresso attraverso la musica, che è, come dicevi te prima, senz'altro la forma più immediata per comunicare delle sensazioni che magari sono prepolitiche, non c'è niente di razionale o c'è poco di razionale in tutto quello, ma c'è molta il blues è proprio quello, il soul è assolutamente quello, cioè qualcosa che comunica delle corde che non sono semplicemente quelle della razionalità, del raziocinio, della ragionevolezza. Sì, è vero. E conoscere quindi, e poi scoprire dopo che invece poi tutto sommato sono espressione, nel caso del blues, del funky, delle lotte dei neri d'America, certo, che sono, non sono mai finite, della perché... diaspora, certo, assolutamente, no, non sono mai finite perché insomma di un anno fa, adesso sembrano che le cose si sono un po' quietate, però siccome i poliziotti amano ancora, i poliziotti bianchi, sì. WASP amano ancora sparare principalmente ai ragazzini neri, insomma. Comunque essere qualcosa che non funziona, cioè, non è facile, forse è pure peggio che esserlo qua in Italia, non lo so. Sì, insomma, abbatto. Poi soprattutto noi diciamo abbiamo come così un po' così qualunquisticamente si dice prendiamo sempre dall'America, ma dagli Stati Uniti d'America il peggio. Che ci siamo adeguati immediatamente, insomma, e probabilmente appunto andremo anche a peggiorare la situazione, quindi funky. Funky, abbiamo parlato di lotte politiche, sentiamoci proprio questa Say It Loud and Black and I'm Proud, che però non risponde questo titolo alla raccomandazione che mi fece Big Max, dicendo però scegli i titoli facili da dire. Lo so, è complicato, adesso lo ripeti. Say it loud, I'm black and I'm proud, dai. Yeah. people too. We like the birds and the bees, but we'd rather die on our feet and keep living on our knees. Good old sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until the good old sun went down. You know it's so hard to love someone don't love you. Ain't satisfaction, don't you? What you do, yeah, it's so hard to love someone don't love you. You don't look like it ain't satisfaction, don't care what you do. Well, I got up this morning to break a day, just hugging the pillows she used to lay. I said, soon this morning, yes, it's a break of the day. You know I'd hug and feel it, oh, how my good gal used to live. I got up this morning feeling right for my shoe. You know I must have the walking blues. Soon this morning I'm feeling out for my shoe. Yeah, I know about that. I'm must have the walking blues. Oh, hush! Thought I heard her call my name. It wasn't so loud, so nice and plain. Yeah. So now, that letter, questo qui è un sì, Sonhaus. Classe 1902, sì, scomparso nel 1988, tratto da una collezione che ha fatto Cotton Gin Club, che è la trasmissione di Blue. Salutiamoli. Sì, li salutiamo, non credo che vadano più in onda, non mi risulta. Li salutiamo lo stesso. Li salutiamo lo stesso perché è un'altra pagina importante della radio. E tra l'altro coloro che in qualche misura hanno anche proseguito quello che è stato il vostro lavoro per tanti anni. È un disco proprio come? Meno male, sì. Meno, cioè, sì, no, è quel bellezza, no, la bellezza anche della re è quello che poi alla fine uno semina e poi qualcun altro raccoglie, senz'altro. È sempre successo perché così funziona quando appunto le idee si fanno circolare, si cortocircuitano, si mettono in relazione. Poi come la radio ha sempre fatto. Sì, come la radio ha sempre fatto. Una caratteristica della radio è proprio quella di essere anticarceraria. Una tradizione, quindi in questa seguendo questo punto cardine del nostro essere nell'etere, uscì proprio un lavoro che si chiama Prison Blues da Cotton Gin Club, dove ci stanno tutte queste robe. Radio anticarceraria, radio che si interessava dei movimenti afroamericani, quindi facciamo uno più uno che esce fuori in quegli anni. Esce fuori la storia di Mumia Bujamal, che è stata una delle campagne che più ci ha impegnato in quegli anni. Mumia Bujamal che fu incarcerato nel 1981, sì. Nell'81, però appunto le campagne. E sta ancora dentro, Nel 2017 sta nell'infermeria del carcere dove è detenuto, insomma, non è uscito, male. Sta molto male, però non malgrado le campagne, eccetera. Non lo fanno uscire. E all'epoca come giravano questi? Cioè, nell'81 lui viene incarcerato. Se comincia a parlare, in realtà poi forse anche prima, però riesce a prendere piede questa campagna internazionale per la liberazione di Mumia Bujamal, penso alla fine degli anni 80 da noi. Eh sì, all'epoca si comunicava col fax o poco più, insomma. Forse poco meno, anche perché il fax è già una roba degli anni, primi anni 90, fine anni 80. Quindi, sì, durante la Pantera. Essenzialmente si andava nei posti, si andava in giro, oppure c'era della gente che andava in giro. Sì, arrivavano le telefonate dai vari posti, c'era già all'epoca c'era Speciale Palestina come trasmissione radio, sì. Anche c'era Fonseca, c'era Fonseca. Sì, sì, sì. Sì, però effettivamente dal Nord America le informazioni arrivavano bisognava andare, qualche libro, qualche fanzine, qualche rivista magari che si occupava, potrebbero essere, non so, Frigidaire piuttosto che Linus, erano le riviste su cui giravano queste campagne, perché appunto erano fatte poi non so se anche il Manifesto poi si occupò senz'altro della cosa, certo. Ovviamente la radio non poteva fare a meno di trattare la questione appunto di un nero afroamericano del Black Panther, giornalista radiofonico che a un certo punto viene incastrato letteralmente perché appunto per la storia fu che lui fu coinvolto in una sparatoria, lui faceva il tassista, accompagnò questo qui in una perché l'hanno zona. Licenziato dalle radio proprio per il tipo di posizioni politiche che aveva preso, rimase coinvolto in questa sparatoria e niente per qua dice che a livello di perizie balistiche non si è mai verificata questa cosa. È arbitrario, però lui sta dentro dall'81 e non lo fanno uscire. Sì, anche per quel vizio della legislazione americana per cui te anche quando fai appello, adesso magari dico stupidaggine perché non so sicuramente, cioè già odio la giurisprudenza in sé, insomma, poi pensate quella americana che ne posso, però insomma quello che leggevo all'epoca, che mi sembra di ricordare, è che se uno viene, c'ha un giudice nel primo grado del giudizio, poi gli se lo porta appresso lo stesso giudice per tutti i gradi di giudizio, cioè sempre lo stesso giudice che poi ti trova a giudicare se te fai ricorso. Quindi se quello si è accanito con te è finita insomma la storia. E difatti appunto siamo al 2017, 1981 abbiamo detto, ormai siamo a 36 anni di carcere senza infatti la prova effettiva. Foto è un vecchietto, c'ha la barba bianca. Niente, vabbè, bisognerà, di tanto in tanto riesce fuori la campagna, perché perlomeno per portarlo fuori dal carcere in quel che gli rimane di vivere, che speriamo ovviamente sia tanto, malgrado la malattia, però ecco, stiamo ancora qui a ricordare, a sperare, a ricordare Mumbia. Va bene, adesso... Adesso andiamo ancora in... Sì, no... No, perché poi la storia di Mumia ci porta anche sul discorso di come entravano le nuove tecnologie, di come appunto bisognava far qualcosa affinché diventassimo più veloci nello scambiare. Appunto, diciamo prima, dall'81noi abbiamo cominciato a occuparci di Mumia come di Leonard Peltier attraverso campagne internazionali, e per fare presa avevano bisogno di anni, non di... Cioè, oggi stiamo parlando di Facebook, di internet, dei siti, di WhatsApp in cui la gente è... in cui le stronzate virali girano in 3 secondi proprio. E... Va bene. Vivono e muoiono in 3 secondi e Mumbia sta ancora in carcere sempre. Per concludere andiamo... invece a Bruce Bianco. Continuiamo con Bruce Bianco e vi faccio sentire una cosa, poi vi dico che cos'è, perché se no mi tocca andare a leggere. Siamo arrivati al bluegrass, cioè a quella disciplina che proveniva dalla fusione di vari generi, essenzialmente da immigrati, nei immigrati scozzesi, irlandesi, comunque di provenienza anglosassone, immigrati negli stati del sud, forse pure del nord, non lo so, ma essenzialmente comunque. Io penso nella parte o francofona, proprio Louisiana eccetera, nel Mississippi, insomma nella zona delle grandi pianure, dei grandi paludi, dei grandi fiumi, e proprio dalla commissione del bluegrass con i canti dei neri, che nasce roba, la musica, sì, nasce questa roba che di per sé, anche se non è garanzia di antirazzismo, però nel momento in cui andava a mischiare queste varie anime, probabilmente metteva insieme bianchi e neri e cominciava a macinare anche quel senso poi di rinascita della diaspora africana, insomma, e quella possibilità mano a mano che si davano i neri per uscire fuori, per emanciparsi, insomma, nella società statunitense. Dicevamo prima di questi tempi biblici, che oggi sembra bene, in realtà per noi erano normalissimi, perché si è tutto accelerato. Però a un certo punto escono fuori le tecnologie. Io mi ricordo quando entrai in radio, c'era una fazione della radio che era proprio contraria all'uso proprio del computer, in quanto strumento del potere, in quanto strumento che toglieva lavoro, per cui non lo so, io non riuscivo bene a capire, perché ero giovane, cioè io avevo il computer da quando era uscito il Commodore 64. Non riuscivo bene a capire un mondo futuro dove non si sarebbero usati i computer. E insomma, quando sono entrato io c'era addirittura questa fazione che non voleva proprio i computer e dati. Però stava nascendo questa cosa qui delle CN, no? Lo dicevamo prima. European Counter Network, che nasce da una sorta di riunioni. All'inizio erano riunioni che si facevano nei vari poli delle CN, anzi ancora prima dei poli, quando si dovevano creare i poli si sono fatte queste riunioni, si è cominciato a parlare di questa roba, diciamo, queste tecnologie nuove, insomma, tutto nasce intorno all'89-90, sì, in cui cominciano a nascere le prime BBS, e prima ancora ovviamente di internet magari spiego che cosa sono le faccio una piccola. Vai, riesci a spiegarlo in due parole? Essenzialmente, si tratta di trasmissione dati, quindi dobbiamo all'epoca trasmettere... erano trasmissioni proprio da punto a punto, bisognava superare questa logica, cioè normalmente ci si collegava con un modem. C'erano delle linee che erano le trasmissioni dati, costavano un sacco di soldi, ci stava una rete Itapac che si chiamava così all'epoca e che pure questa permetteva, era il primo tentativo di fare una rete che potesse connettere utenti in tutto il mondo abbastanza liberamente. E invece c'erano le BBS, cioè le BBS era qualcosa di fatto in casa, cioè come appropriarsi di questa tecnologia della trasmissione dati a fini propri. Quindi si costruivano i vari nodi, mi sa che si connettevano l'un l'altro e si scambiavano quanti i pacchetti di notte, quando le telefonate costavano poco. Meno. Sì, perché avveniva in rete commutata, cioè col telefono di casa, mettevano dei modem e si partiva. BBS significa Bulletin Board System, quindi un sistema di archiviazione, insomma, di storage, di immagazzinamento dei bollettini, e quindi si faceva Dal punto di vista informatico non so esattamente come funzionava, però io mi ricordo che in radio a un certo punto si decise di prendere un computer con schermo rigorosamente in bianco e nero, cristalli, il primo era proprio cristalli verdi, com'era? Bruttissimo, una cosa che ti perforava la retina proprio era. E lì mettevamo i vari comunicati che ci arrivavano via fax all'epoca, io quando sono arrivato già c'era il fax, arrivano si trascrivevano sul computer e all'epoca si scriveva tanto I volantini erano fronte retro, fitti sì, è vero, era un lavoraccio. Si trascrivevano tutti quanti i volantini, ovviamente quelli più che avevano un senso di essere ritrasmessi a tutti quanti gli altri nodi, no? A tutti gli altri compagni del network, che poi insomma il network era un po' tutta Italia, c'era Bologna, c'era Milano. Se non andiamo errati funzionava più o meno così, c'erano vari poli, adesso sì, Bologna, Milano, Torino forse, Torino Padova pure, sicuramente, sì. E Roma. Padova, Roma. Funziona qualcosa forse pure a Napoli, Napoli. Sì. E Genova, addirittura. Torino, uno dei due, adesso non ricordo. Comunque dipendeva dai collettivi dei compagni che decidevano di fare sta cosa, insomma, quindi ovviamente le grandi città erano favorite proprio per il numero di persone che potenzialmente potevano partecipare. E poi ci si connetteva con la Germania, che era un po' quelli che avevano pensato, perché poi queste cose nascevano tutte nella Berlino, penso, se ricordo bene, nella Berlino delle occupazioni, Sì, perché era una cosa che doveva essere europea, poi alla fine in Italia prese un po' più piedi, in Europa c'erano olandesi c'erano, e tedeschi. Olandesi e Radio Drakeland. Vedi che ti ricordi, piano piano emergono. Mettendo insieme, capito, due capocce così ne facciamo mezza. Sì, insomma. E nacque questa cosa, quindi ci si connetteva di notte, alternativamente poi uno funzionava da master, per cui si organizzavano proprio queste connessioni, perché erano delle punto, un computer con un altro computer, quindi quello si metteva in trasmissione, un altro si metteva in ascolto e andava a scaricare, quindi sì, quelle che erano. Però ci si teneva così aggiornati in tempi che non avevano nulla a che vedere con quanto succedeva prima, perché si faceva tutto nel giro di una settimana, per cui a Torino o a Milano sapevano dell'occupazione di case di Roma, per dire, che era successa il giorno prima o due giorni prima, insomma. Sì, questo per le radio era molto importante, perché alla fine l'ECN stampava anche dei bollettini che venivano volantinati, questo una volta al mese, sì. Però cartacei, cartacei. In una situazione come Radio Onda Rossa o le altre radio in giro per l'Italia, era un'informazione che ti arrivava immediatamente. Tu il giorno dopo avevi il volantino, l'analisi fatta sull'occupazione, lo sgombero di questo. Che di quell'altro centro sociale, posto, certo. E calcolate una cosa, che all'epoca sì, c'erano i primi vagiti di appunto reti comunque di trasmissione dati, quindi già i giornali sicuramente erano dati, ma essenzialmente le notizie fino a pochissimo tempo prima giravano su Telex, che era questa sorta di stampatrice che mandava, sì, i Telex dell'ANSA, cioè delle agenzie di stampa. È una cosa che pure in radio c'è stata, io non, sì, non è ho vero, avuto occasione è vero, di vedere. C'era il Telex. Il Telex in radio, che era un macchinone enorme, tra l'altro ingombrante e rumoroso. Sì. E quindi questa cosa qui costituiva un grosso passo avanti, che era fatto con molta poca tecnologia, tutto sommato, perché si trattava di avere un computer e un modem, di connetterli, di farli in qualche maniera parlare fra loro, che non è cosa banale, perché vi assicuro che c'erano 2000 parametri da configurare, eccetera, eccetera. Però ecco, la nascente. Tu sei pratico di queste cose. Ma insomma, la nascente generazione degli informatici e di quelli che smanettavano sui computer ormai era approdata a Onda Rossa, insomma, questo un po' è il dato. Ok. Quindi ti lascio di nuovo. Ah. Baracca e Burattini. A proposito di computer. A proposito di computer. La playlist. Facciamo andare da questo aggeggino, il genio del blues, che sapete benissimo chi è, Ray Charles. Ci andiamo a sentire Chattanooga Choo-Choo. Parte. Pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo on track 29? Boy, you can give me a shine. I can afford to board the Chattanooga choo-choo. You see, I've got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Oh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station, all satin and lace. We used to call Funny Face. Well, she's gonna cry. Should I tell her that I'll never roam? Oh, in a Chattanooga choo-choo, why don't you choo-choo me home? There's gonna be a certain party at the station, all satin and lace. We used to call funny face. Well, she's gonna cry till I tell her that I'll never roam. Whoa, Chattanooga choo-choo, why don't you choo-choo me home? Yeah, Chattanooga choo-choo, why don't you choo-choo me home? All aboard, all aboard. Eccoci quindi con questi erano i grandi classici, i classiconi di Blues Power, Blues Night, Chain of Fools di Aretha Franklin, eppure questa Aretha Franklin, Don't Play the Song for Me, che vanno sotto la voce mentre noi deliriamo, insomma, con questi e ricordi. E come non ricordare Marta sotto queste note? Perché sì. La stiamo a chiamare, però non è alla ma scuola. Verrà la qui la invitata? In trasmissione lei è venuta molte volte e chissà che non riesco a organizzare per i primi di maggio una cosetta anche con altri ospiti molto grandi, grandi ospiti, ma non in senso metaforico, insomma, proprio grandi. Ivano. Però insomma manco lui lo sa ancora, mo stiamo cercando di contatti eccetera. Vabbè. E magari avremo occasione pure di prendere fa insomma il secchiello Olivaro, dai, diciamola così. Insomma, vabbè, chi vuole capire capisce. Dunque stavamo per concludere insomma questa generazione informatica, che in qualche maniera per forza di cose, come è proprio una roba di storia, insomma, le macchine, che l'industrializzazione che vince sull'artista, sti computer devono entrare in radio, è diventato pure per molte e molte di noi di quella generazione là, poi pure una forma di professione, di impiego, di roba che ti serve pure per guadagnarci, certo, da vivere, lavorare con queste macchine che comunque in realtà infernali sono, e sono al servizio del padrone, questo non ci piove. Sì, sì, dopodiché certo, però, non si bisogna ferma. Cominciare un processo di riappropriarci dei mezzi di produzione, probabilmente. Comunque insomma, bisognava usarli questi computer, bisognava, ma anche attenzione, bisognava, ma poi ci siamo anche divertiti a usarli. Ah, comunque, io mi divertivo. Comunque sì, cominciamo a lavorare pure sulla grafica. Una delle prime cose che mi ricordo, esatto, esattamente le persone che stanno in questo studio curarono la grafica di una cassetta storica, se te ti ricordi. È una cassetta che è diventata, cioè, penso che chi ce l'ha, io c'ho solo la coccia, mi son l'ho buttata. Hai buttato l'ho buttata in un cassonetto, ma per errore. Di quello è Vai Power, il disco. Eh sì, quelle autoproduzioni. Forse fu, non so se fu la prima, perché ce ne stavano già altre di produzioni così. No, penso che dopo Onda Rossa fosse. Io sono pure citato fra i. Siamo citati tutte e due. Sei citato, sì, anche tu. La generazione c'è tutta. Sì. E poi curammo la grafica di quella cassettina. Usammo un programma improbabile. Come si scarica? I programmi all'epoca, sempre per le nuove generazioni, tanto pure per capirci e per affrontare ancora questo argomento, non è che si scaricavano da internet. No. Non c'era internet. E si rimediavano, però. Si rimediavano, si andava in giro con il floppy, certo. Il floppy disk che conteneva. C'erano i floppy quelli grossi, ma diciamo poi subentrarono presto quelli piccoli, che passarono quindi dai 344 kilobyte che conteneva 1,4 mega, quindi 1440 kilobyte. Però già all'epoca. Adesso che c'è, non mi manco ci metti un foglio notepad proprio. Però già all'epoca esistevano delle cose professionali. Tant'è che noi che lavoravamo con la grafica, con Vito, ricordiamolo. Sì, che sì, ci ha lasciato un annetto fa, sì. Noi portavamo a Vito i lavori con dentro i dischetti zip, sì. Si chiamavano zip, dei disconi tipo floppy però più grossi, mm-hmm. E ci davano ben 100 mega, sì. Un intero file JPEG a risoluzione più o meno buona per essere stampato. E invece dentro che cosa c'erano? Le grafiche, per come si facevano nuove, quindi la nascita di dei primi le locandine, per esempio, si facevano a mano prima, invece si cominciano a fare. Abbiamo cominciato a farli con il computer. Col sì, computer. Io sono stato uno dei primi a fare, per esempio, dietro le spalle. Tu, mm-hmm. Cioè, se avete la webcam, guardate sul. Ah, sì, dietro le spalle mie, sì. C'è un manifesto che feci io. Che beh, questo già in epoca abbastanza recente, Radio Gap, per cui sarà stato il 2000, sì. E Vabbè, niente, comunque abbiamo cominciato a usare queste, questi computer anche in questa forma di grafica. Ed è venuta un'idea. È venuta fuori l'idea di Scarceranda, che tuttora... È venuta, credo, in contemporanea con... Credo, magari aiutami te, con le prime... le prime inizialmente notturne sotto il carcere di Rebibbia il 31 dicembre e poi invece pomeridiane e mattutine, insomma, come le facciamo ancora oggi. Sì. Quindi si comincia ad andare sotto il carcere. Ora all'epoca sì, nacque un collettivo, insomma, un gruppo di persone che era sensibile a queste, beh, tutta la radio è sempre stata sensibile, certo, alla... Chi si occupava più direttamente dell'argomento? Questo sì, c'era un gruppo, come si chiamava? Odio il carcere. Odio il carcere. E niente, quindi questo gruppo a cui mi aggregai io in quanto esperto di grafica. Di grafica. E abbiamo rimediato dei Macintosh, potevamo lavorare su dei Macintosh e per la prima volta siamo riusciti a pubblicare un'intera agenda sempre sullo stile della fanzine, sempre con tanti disegni e con foto scritte, foto, sì. Ma i primi anni la ricerca della delle immagini e dei testi era una cosa che prendeva parecchio. Andavamo in giro a cercare, all'epoca appunto non c'era Facebook, per cui i vari fumettisti dovevano andarli a cercare a e casa, nascono, insomma, le varie idee, insomma, del fare la Scarceranda, che inizialmente era appunto un po' diversa dalla forma abbastanza attuale, perché poi a un certo punto ha preso una sua forma, Scarceranda è rimasta, sì, almeno nella dimensione, nelle dimensioni e anche nel pure e poi stile. Adesso nella separazione della fra quaderno e agenda, le prime due erano sì, molto forma, giustamente dicevi, del fanzine, adesso forse sarebbe... poco usabili. Però sì, c'era chi lo usava e con soddisfazione. E poi soprattutto era un oggetto da tenere in mano, da sfogliare, e poi appunto era la modalità di comunicazione dell'epoca, un po' questa grafica fatta a college con robe abbastanza disordinate, che nascevano appunto in realtà da non fare le cose al computer. Cioè, il computer poi ci ha permesso di cambiare i stili. Prima si lavorava appunto più sulla fotocopia, la copia fotostatica. Sì, sulla fotocopia, ritagliando le cose, quindi appiccicandole. Si appiccicava e si facevano le prime grafiche pre-informatizzazione. La rivoluzione, sì, informatica, pure questa è un'altra cosa che ci ha cambiato le vite, ha portato anche... Quindi un paio d'anni di questa Scarceranda... E poi dopo è cambiata e a un certo punto ha preso una sua forma. Perché ha preso questa forma moderna? Te lo ricordi quale fu la scelta all'epoca? Ma ogni anno si ragiona su come fare la nuova Scarceranda meglio di quella precedente. E a un certo punto abbiamo pensato a questa cosa di renderla più piccola ed effettivamente è più comoda piccola, insomma. Poi ancora adesso si discute se farci le righe, i quadretti, se lasciarla bianca, ognuno ha la sua idea. E invece il fatto di scegliere comunque non la forma dell'agenda classica, quella che andava all'epoca, cioè un giorno una pagina, ma di scegliere invece di fare quattro giorni per pagina, quello sempre per motivi economici e anche di maneggevolezza, insomma, perché averci un malloppone alto non è facile da mettere in tasca, anche perché poi la Scarceranda è un oggetto, a parte che nasceva praticamente con l'idea subito, immediatamente, di essere un veicolo fra il dentro e il fuori, innanzitutto. Questa, sì, è una cosa che diciamo, la Scarceranda, per ogni agenda comprata ne viene spedita una gratis in carcere. Alle volte anche due, insomma. Anche di certo. Dipende appunto quanto riusciamo ad alzare in termini economici durante l'anno, quanto appunto è il rapporto, quante ne produciamo, e quindi questo veicolo fra dentro e fuori ha portato immediatamente pure che chi ha cominciato a collaborare poi alla stesura della scarceranda in tutte. Ci sono tanti contributi che dall'interno del carcere arrivano a Scarceranda e vengono sempre pubblicate tutte le lettere e le varie analisi che magari arrivano dentro il carcere. Certo. Okay. Scritti, magari dalla poesia di tre righe a magari al trattato, al saggetto di 40 pagine, insomma, abbiamo avuto un po' di sì, tutto. Sì, abbiamo sempre cercato di censurare il meno possibile, di pubblicare sempre tutto quello che ci arrivava. Sì, tante anche cose. Se non ci piacevano, sia disegni che testi. Tanto è vero che a un certo punto, appunto, Scarceranda si divide, no? Con il quaderno e con. Sì, perché oramai i contributi erano troppi e appunto rendevano poco maneggevole un oggetto grosso, e per cui abbiamo deciso di farne due, uno sull'agenda e il quaderno che tuttora funziona così. A un certo punto, sempre credo per colpa tua, perché ancora c'è sempre le tecnologie che entrano. Ci fu anche un periodo in cui uscì la rubrica. Ah, ce n'è anche. È vero. Ah sì, ma abbiamo fatto rubrica, abbiamo fatto anche un quadernino di fogli bianchi, così. Sì, poi perché. Sì, ne abbiamo provate tutte. C'è anche il terzo, aspetta, non scordare, a Scarceranda un altro contributo importantissimo. E con questo andiamo a salutare un altro compagno storico della radio che è Fagiolino. Che purtroppo col carcere ci ha dovuto e ci convive in qualche forma anche oggi, il fatto che in carcere una delle pochissime forme di espressione concessa è un'altra arte, forse la più grande per noi, almeno della penisola, la più importante per noi, che è quella del cucinare. Ah, certo, sì. Sì, poi Fagiolino c'ha il tocco magico in cucina, per cui sì, una delle rubriche più lette di Scarceranda è quella delle ricette dentro il carcere, tutte ricette che sono facilmente fattibili con gli ingredienti che si reperiscono nel carcere, col fornelletto da campeggio si possono fare. Quindi insomma, nelle varie scarce, infatti solo per quello vi dovreste conservare le varie, ma sono pubblicate su internet le scarcerande vecchie, mi sa di no. Sì, vero? Sì. Sì, ci sì, stanno sì. Sono raggiungibili dal sito nostro, non ci ho mai fatto caso. Sì, almeno fino a qualche tempo fa lo erano. Comunque abbiamo ci stanno fatto la penultima, parte, appoggiate nella rete, nel web, da qualche parte ci stanno le scarcerande, e quindi consultabili attraverso lo strumento del demonio, appunto, che mo, fra un po' ve lo dico, che lo andiamo a cercare. Va bene, nel frattempo magari lasciamo un po' riposare le orecchie con del funky, del blues, non so cosa c'hai. Cosa c'ho pronto? Vediamo un po'. Mandiamo questo, Ain't Superstitious. Black cat, I've crossed my grave. 0 3 minuti dopo la mezzanotte, quindi ormai nella 25esima ora. E... Onda Rossa, okay. 25 o'clock, 06491750 e il blues sotto la nostra voce. Ucci Cucci Man, eh? Mazzo. Veramente il blues. Comunque, se andate a vedere su sul web, prima di tutti ci siamo tolti noi, almeno ci siamo regalati la certezza. La certezza, no, infatti io me lo ricordavo che c'erano, infatti ci sono. E se andate su scarceranda.ondarossa.info, e lì, su, lì, su, quella, su quell'URL trovate tutta quanta la scarceranda di quest'anno. Sì. Se aggiungete slash testi, o meglio se cliccate su testi in alto a sinistra, trovate tutte le scarcerande di, dal 99 a, quindi tutte, a tutt'oggi. Tutte quante. Quindi abbiamo saltato un anno, eh? Qual è l'anno che abbiamo saltato? È uno dei primi, credo. 2002. I calendari pure facevamo, li facciamo ancora. Qualche anno l'abbiamo saltato pure il calendario. Ma perché ogni volta è un parto, tu sai benissimo. Ogni volta è un parto e più calcolate pure che è una radio autogestita e funziona così. Se non gliela fame è perché ne abbiamo fatta. Non è che. Sì, insomma, andando pure io invece andavo molto più sul solito per anche denotare la mia levatura culturale, invece che testi sono andato su ricette a cercare proprio le ricette, eppure lì la stessa cosa. Potete andare tranquillamente a dal 2008, 2007, 2006, 2005, a ritroso, 2000, insomma ci stanno un po' tutte le ricette che sono state pubblicate, no, 2012, 2013, 14, dal 2014, non so perché negli ultimi anni non ci sono, però mi sembra che c'era. No, c'è una delle cose che... Sì, quella è abbastanza fissa. Sì. Guarda, non ricordo la scarceranda di quest'anno perché io devo dire la scarceranda di per sé la utilizzo subito perché è la cioè tutte le scalette che sentite da prima di Next Time e poi di 25 o'clock sono pubblicate sulla scarceranda mia da sempre, a parte sono qualche... scritte da te sulla tua scarceranda, sono scritte da me, sì, sulla mia scarceranda. Alle volte la scarceranda la lasciavo in radio, come succede spesso, ma la radio nasconde ma non ruba, quindi si ritrova e qualche cosa è su pezzettini di carta, ma queste sono cose penso che non ve ne può fregare di meno a voi. Poi potremmo aprire penso un capitolo che non apriamo, l'accendiamo solo quello che a un certo punto la radio si dotò, sempre a livello questa rivoluzione informale, di una lista di discussione, basta, chiusa così, no. Eh sì, no, perché troppo ce ne sarebbe da parlare, ma no, sono strumenti utili, una lista di discussione su una radio ci vuole, anzi ci vorrebbe una lista, anche qui parliamo di robe arcaiche, oggi avremmo aperto appunto una, su WhatsApp. WhatsApp o qualcosa del genere. Ma non, invece non, all'epoca andavano le mail liste, sì. Poi ognuno ha il suo motivo di essere, esatto, perché alcune cose tutte le mandi via email perché c'è un senso che le mandi via email, ma magari una comunicazione veloce, chi va a aprire la radio subito forse te arriva sul WhatsApp o sul Telegram, come dicevamo prima, perché una delle caratteristiche, poi abbiamo delle trasmissioni appositamente dedicate a parlare appunto di nuove tecnologie di informatica, anche questa è una cosa che curiamo ormai da oltre un decennio, insomma, di parlare di nuove tecnologie, nuovi orizzonti della comunicazione e quindi del controllo dall'altra faccia della medaglia. Una delle caratteristiche appunto di cui la radio è sempre stata attenta, non sempre riuscendoci, a quella della sicurezza delle informazioni, cioè al fatto che comunque sono cazzi miei, insomma, non sono cazzi nostri, sono cose che appartengono a un collettivo di persone che manda avanti Radio Onda Rossa. Poi ci saranno le liste pubbliche, insomma, certo, un po' di paranoia. Ma questo per il è controllo, sempre stato coerente, certo, è sempre riuscito a dotarsi degli strumenti per mantenere le cose nel, come dicevi tu, no? Nel, sono cose nostre e cioè, abbiamo un server qua in radio, no? Certo, certo. E appunto per quello. Le poi cose nostre non stanno messe su un server di chissà chi, chissà sì, dove. Sì, sì. E rientra un po' nel discorso che facevamo inizialmente sulle discussioni annose sui social network, insomma. Quindi Facebook, eccetera. Però appunto deleghiamo a un'altra volta, dai. Sì, sì, sì, no, è troppo lungo. Proroghiamo. Non so se siamo noi quelli, no, più infatti, adatti più a parlare. Più idonei anche per aggiornamenti, insomma, siamo rimasti alle mail list. friend of mine. Vabbè, noi persi un po' nelle nostre chiacchiere, ci siamo dimenticati di voi e abbiamo lasciato con, prima con B.B. King e poi con due versioni di Hound Dog, una quella classica di Elvis Presley e invece questa qui che avete appena sentito di Jimi Hendrix. Io direi che più o meno possiamo andare a chiudere. Io ho il mio pezzo di chiusura, che è uno dei pezzi più belli del secolo scorso, secondo me. Che comunque chiudeva, no? Blues Night o no? L'ha chiusa parecchie volte. L'ha chiusa sovente, sì, me la ricordo. Ricordiamo appunto queste domeniche, che poi uno lunedì doveva tornare a lavorare. E per cui non è che stavi proprio nella condizione di essere proprio pimpante, insomma, per cui andava bene questo Blues Night che si allungava e che ascoltavi mentre ti addormentavi nel letto, esatto, con la voce calda di Big Max, che salutiamo. Ci diamo appuntamento tra l'altro sempre con loro, con Blues Power, Blues Night, come la volete intendere meglio voi, per continuare B.B. King, la lettura dell'autobiografia. Chissà, siamo arrivati all'adolescenza, dove siamo? No, sì, Massimo è un po' paliderma, ma insomma su questo se l'è presa. Si era partita che bisognava fare una trasmissione su B.B. e invece sono diventati 4 per ora, ma saranno 10 penso, sì, con la cadenza attuale dei vari frame della vita di B.B. King che stiamo affrontando. Comunque una roba bella, una delle cose anche più belle e interessanti che mi è capitato di contribuire a fare in questo spazio, perché più un contributo in realtà è Big Max che si occupa sì, quasi integralmente di questa roba qua. È roba sua. Sì, sì, sì. Che noi ospitiamo molto, molto, molto volentieri, insomma, con molta, molta gioia. Ok, ci abbiamo parlato sopra, la rimettiamo da capo questa, no? trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Minuti dopo la mezzanotte, quindi vi salutiamo in compagnia di Spider, l'altro pezzo di Blues Night, e pure tante altre cose come avrete sentito in questa sera. Quindi continuiamo a ricostruire pezzetti di storia di Radio Onda Rossa, che appunto, essendo una storia molteplice, ha bisogno di molteplici voci per essere ricordata, perché altrimenti rimarrebbe parziale. Storia però di grande attualità, sempre, che guarda con lo sguardo dritto verso il futuro. Le programmazioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono qui. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Ario, la signora Ario. Adesso ci abbiamo la stessa dell'altra volta. No, è cambiata un'altra volta? No, prima era Zara. Zara 3-4 anni fa, 2-3 anni, no, ah, no, un po' meno, no. Non tantino, un annetto fa era Zara ancora, un anno e mezzo. Mo' è diventato Ario. Ario c'ha in pancia pure un sacco di repliche che potete riascoltare. Non le nostre, spero. Qualcosetta penso di, non potrebbe, lo so, capire. Potrebbe avere, questa sicuramente. Quella di stasera ve la ribeccate di notte. Random. Poi la programmazione riprende domani mattina con la rassegna stampa, la lettura delle prime pagine dei giornali. Le fatte un po' di rassegna stampa? Qualche volta sì, mi sa. Qualche volta, qualche sì. Qualche volta sì, è capitato pure. Io la mattina carburo un po' a rilento, preferivo i pomeriggi, però mi è capitato di tutto. Quando entri in quel radio, uno insomma comincia a fare cose, poi può essere pure che finisce a svuotare i cestini, a pulire i cessi, quello sempre, il che è forse di primaria importanza, perché appunto non c'è una priorità in radio come nel mondo, nelle varie attività che uno fa. Ok, ricordiamo i contatti della radio? Sì, ricordiamoli, dai. 06 49 17 50 è il numero di telefono. Easy. 61 80 40 01 è il numero di conto corrente postale. Tente stare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via dei Volsci 56 00185. Roma Sallollo. Quindi dicevamo, domattina via via tutta la programmazione, GR, visionari, tracce di cinema con Militantà, abbiamo letto prima, domani sarà ospite, vieni. Da non perdere. Da non perdere. E dopo ci sta Attica Blues, dopo ci sta Le Schiene del Sol, vedi? Vedi? Dopo ci sta Le Schiene del Sol, Mezzedes che sono redazionali, il martedì autogestito da femministe e lesbiche e Apostasia alla fine, insomma, eccolo qua. Vi abbiamo detto pure come funziona il giovedì di Onda Rossa. Quindi il nostro saluto più importante va, come al solito, a chi è privato della propria libertà personale. Carcere, latitanza, arresti domiciliari e famigerati CIE, perché ogni condizione sociale, diciamo così, ha bisogno di un suo carcere specifico in questa società di merda. Eppure tutti i decreti, tutti i compagni e le compagne che sono costretti da decreti amministrativi, non ultimo i vari decreti amministrativi previsti dalla legge Minniti, che allontanano le persone dai propri affetti, dalla propria residenza, dal proprio lavoro, insomma ti rendono la vita un inferno. Cercando di allontanare appunto compagni e compagne dalle lotte, dalle situazioni. Semplicemente sulla base di un pregiudizio giuridico, sociale, amministrativo, di polizia, insomma, per dirla tutta. Dai, ci risentiamo mercoledì prossimo, come e con chi non lo sappiamo. Lo scopriremo. Nel frattempo appunto salutiamo Spider e senz'altro diciamo appuntamento a un BB King numero 5. Sicuramente, ci diamo appuntamento anche alla festa del compleanno della radio. Oh sì, assolutamente, il 24 e poi il 16 e 17 giugno, se non andiamo errati. E poi pure altre cose, al forte, il 30 di maggio, mi pare, insomma, adesso dai, man a mano. Stay tuned. Sì, man a mano poi uscirà pure flyerini, robe grafiche, appunto, che ci illustrano tutta la faccenda. Dai! Noi ci risentiamo mercoledì prossimo. E noi chissà quando. Ciao. again, tonight we'll win. Let it begin, tonight we'll win. Dreams, I'll share our dreams under a communist moon.